24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Paolo Astaldi, 55 anni, romano, sposato con un figlio, laurea in economia, una vita nell'azienda di famiglia fino a diventare presidente nel 2010. L'Astaldi è tra le prime 25 in Europa nelle costruzioni, da 90 anni sviluppa iniziative di progettazione, costruzione, gestione di opere pubbliche, le infrastrutture di trasporto, gli impianti idroelettrici, l'edilizia civile e industriale sono le attività principali. Quotata in borsa dal 2002, il gruppo ha ordine per oltre 21 miliardi, più di 10.000 dipendenti in Italia, Turchia, Polonia, Russia, Cina, Perù, sono alcuni dei paesi di attività. Adesso lui, azionista numero uno, è anche il capo azienda e dice l'Italia torna a essere interessante per il gruppo, che spera nello sblocca Italia, ma prima anche per lui c'è l'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, dottor Astaldi, Mattarella, se sarà eletto, le piace come nome? Buongiorno. Non conosco Mattarella, quello che posso augurarmi però è che prosegua nel solco che ha tracciato il suo predecessore. Senta, ma che voto dà al primo anno di governo Renzi? 7,5. Che cosa l'ha colpito favorevolmente? Ma io ho incontrato Renzi prima di Natale al terzo ponte sul Bosforo, quando è venuto a visitare il nostro progetto. Mi ha colpito molto l'attenzione alle imprese italiane, la sua vicinanza, la sua sensibilità verso i temi dell'occupazione giovanile. E c'è qualcosa che gli rimprovera invece del suo primo anno? Beh, forse i tempi decisionali, però mi rendo anche conto che la politica ha tempi diversi rispetto a quelli di Lucrezia. Vabbè, non gli rimproverà niente, ho capito. Dottor Astaldi, lei è a capo di un gruppo tra i primi 100 contractor del mondo e tra i primi 25 in Europa, l'abbiamo detto, con 25 miliardi in portafoglio. Come vede l'Italia dall'estero? Come un paese ripiegato su se stesso. Quindi un paese con un grande futuro dietro le spalle, oppure può farcela? Io penso che possa farcela, le condizioni ci sono. E cosa serve per ripartire? Ma secondo me quello che serve è un piano industriale, un sogno, un progetto per il futuro che possa rilanciare il paese e unirlo su una grande idea prospettata nel futuro. Senta, dottor Astaldi, la mossa di Draghi, parlando di futuro, cioè il piano di acquisto di titoli di Stato per 60 miliardi al mese, rilancerà l'economia europea? Io penso di sì, a condizione però che la liquidità ricada sull'economia reale. Esatto, ma c'è chi dice però troppo poco, troppo tardi, lo pensa un po'? Non è mai troppo tardi. Mai, finché c'è vita c'è speranza. Esatto. Senza dottor Astaldi, un grande piano di opere pubbliche europee, cioè una sorta di New Deal, non sarebbe stata una mossa più efficace? Sicuramente sì, di austerity si può morire. Mi sembra che però ci sia un dibattito in questo senso in Europa e quindi l'auspicio è quello che si vada avanti su un'idea di questo genere. Senta, ma in Italia gli investimenti di opere pubbliche sono crollati del 27%, nel mondo invece sono previsti investimenti globali per 7.900 miliardi di euro. Beh, non era quella la strada? Beh, sicuramente era una strada, certo. Ma è più difficile costruire un ponte sul Bosforo, ne ha parlato, come voi avete fatto, o un ospedale in Calabria? Ma non è un problema di Bosforo o di Calabria, il problema sono le amministrazioni che tante volte non riescono a gestire in modo efficace delle commesse che oggettivamente talvolta sono complesse. Senta, efficace vuol dire anche corruzione. Dottor Astaldi, Cantone, il giudice che è a capo dell'anticorruzione, dice appunto che le gare al massimo ribasso sono all'origine delle infiltrazioni mafiose, è vero? Beh, è una delle cause, non è l'unica in realtà. Perché? Beh, perché la corruzione poi e quindi anche la criminalità si annida là dove ci sono regole opache, poco chiare, poco trasparenti. E quindi dal suo punto di vista la ricetta per combatterla, la corruzione, qual è? La prevenzione è fondamentale e fare poche regole ma chiare e inequivocabili. Ma questo lo dicono più o meno tutti, ma secondo lei è una cosa che si farà? Si può fare. Il vostro sogno, lo dite voi nelle vostre presentazioni, è costruire per il progresso. Bellissima frase, ma cosa significa? Significa che laddove noi andiamo a lavorare ci mettiamo al servizio dei paesi che abbiano voglia di investire, che abbiano voglia di realizzare e quindi abbiano voglia di dotarsi di quelle infrastrutture che servono per far crescere il paese. Senta, ma voi avete oltre 11.000 dipendenti sparsi in 4 continenti. Dopo quello che è successo a Parigi, è aumentato il timore di attacchi terroristici? Sì, in effetti il timore è aumentato. Devo anche dirle che proprio perché noi lavoriamo in tanti paesi, anche paesi islamici, appunto, dove peraltro devo dire l'ostilità è cresciuta nei paesi islamici. No, non abbiamo, non abbiamo rilevato questo. No, però è aumentato il livello di attenzione nei confronti dei nostri dipendenti, del nostro personale. Cioè più sicurezza. Eh sì, più sicurezza, qualche precauzione in più, certo. Senta, dottor Astaldi, in Italia la Astaldi è legata al nome, il vostro nome è legato alla costruzione dell'Autostrada del Sole, un'impresa che sarebbe ancora possibile oggi, 8 anni soltanto per farla. Difficile. Sì, eh? Oggi in 8 anni non si ottengono neanche i permessi. Quello è uno dei problemi. È uno dei problemi. Sì. Ma c'è un'infrastruttura decisiva da fare prima di altre in Italia, secondo lei? Probabilmente no, non credo che ce ne sia una in particolare. Certo, riuscire a completare il progetto a alta velocità, che quindi colleghi per ferrovie al nord e al sud, sicuramente potrebbe essere un progetto che vale la pena di perseguire. Cioè, la TAV è una cosa da sviluppare? Io credo di sì. D'altronde vediamo l'utilizzo che se ne fa oggi, no? Cioè, in che senso dice? Beh, nel senso che è molto utilizzata, insomma, è diventata concorrenziale sulle tratte Roma-Milano, certo, quindi è effettivamente uno strumento utile. Senta, dottora Stadi, lavorate in tutto il mondo, anche in zone dove il tasso di corruzione è storicamente molto elevato, ma esistono stati dove la mazzetta è costituzionalizzata, obbligatoria, peggio dell'Italia? Che io sappia, no. Non c'è niente di peggio dell'Italia? Peggio dell'Italia c'è. Se esistono stati dove questo è costituzionalizzato. Costituzionalizzato diciamo, è fra virgolette, no, ovviamente. Ci sono stati più o meno difficili. Ma come si fa a giocare in quei campionati? Noi non giochiamo. No. Cioè, grandi aziende come la vostra, Salini, Saipem, Finmeccanica, come fanno a competere senza corrompere? Si può? Si può. Si può come? Si può. Con la qualità, con la serietà, con la capacità di risolvere i problemi. Senta, ma delle centinaia di opere che voi avete realizzato in tutto il mondo, dottor Astaldi, qual è quella che la rende in qualche modo più orgoglioso? Beh, tornerei nel nostro paese e direi che sicuramente una delle più belle è la stazione della metropolitana di Napoli e di Toledo. Ah, è stata recentemente considerata dalla CNN la più bella stazione metropolitana d'Europa. Che meraviglia. E se posso aggiungere una cosa, mi rende particolarmente orgoglioso perché è la prova che in Italia si possono non solo realizzare belle opere infrastrutturali, ma si possono fare anche opere di grande qualità. Senta, dottora Stadi, voi avete realizzato il nuovo polo fieristico di Milano, il più grande del mondo, costruito in solo 3 anni. Ma perché siete fuori dall'Expo che arranca per arrivare preparata all'apertura? Chissà se ce la fa, speriamo. Ma dunque, in realtà noi qualche lavoro per l'Expo l'abbiamo fatto perché stiamo realizzando 2 linee della metropolitana di Milano. Ah. Sono sostanzialmente completate e saranno pronte prima dell'Expo. Quindi aggregate all'Expo, diciamo. Aggregate all'Expo, diciamo. Ma quale sarà il futuro dell'area su cui sorge l'Expo? Perché c'è un dibattito enorme. Bisogna chiederlo a chi la gestisce, ognuno il proprio mestiere. Ma lei, da osservatore, forse non disinteressato, immagino. Onestamente no, è una risposta. No. È un problema che non ci siamo posti, ne abbiamo tanti altri. Senza, dottor Astaldi, sono circa 90 i paesi in cui operano le imprese italiane di costruzione. Possiamo dire che esiste un made in Italy del cemento italiano che piace all'estero? Assolutamente sì, è copyright, ecco, di questa. Ma che caratteristiche ha questo made in Italy del cemento? Come dicevo prima, le caratteristiche sono quelle di avere una capacità di realizzare delle opere di grandissima qualità. Credo che le caratteristiche che ci contraddistinguono come italiani, e quindi una grande fantasia, una capacità di risolvere Le caratteristiche classiche del fashion applicate al cemento. Esatto, esatto. Nel 2010, con la sua nomina a presidente, dopo 15 anni la sua famiglia è tornata a gestire direttamente la società. Cosa vi ha spinto questa scelta? Beh, in realtà non a gestire direttamente. La nostra è una società che è gestita da manager. Sì, vabbè, lei è presidente, però io prima sono, era l'azionista. Prima era vicepresidente, diciamo che c'è un percorso di carriera. Aziende crescono. Ha fatto carriera. Senta, non vi siete mai pentiti della decisione di quotarvi in borsa? No. Perché? Beh, perché essere quotati in borsa in realtà è una cultura, cioè è un modo di lavorare. E io credo che per una società che voglia crescere e andare avanti, questo modo di lavorare, quindi con regole di governance, sia importante. Adesso siete stati i primi a usufruire delle norme, fra i primi ad usufruire delle norme che consente, la norma che consente di attribuire un voto doppio a chi detiene le azioni di una società per almeno 2 anni. Ecco, quali sono i vantaggi? Ma per una società come Astaldi, che è una società che ha dei cicli piuttosto lunghi, di medio e lungo periodo. Certo, perché costruzioni esatto, così sono. Quindi sì. Contrariamente al fashion, che ha dei cicli più brevi, riteniamo che avere degli azionisti fedeli, che quindi ci accompagnino ai nostri cicli, sia un grosso vantaggio. Più stabile. Esatto. Ma è una mossa funzionale all'ingresso di nuovi soci, quindi? No, serve a fidelizzare i soci che vogliono seguirci lungo questo percorso. Ma il mercato però teme che questa norma in realtà serve solo a voi, che avete, a lei che ha il 52,5%, per conservare la presa sul controllo dell'azienda. È così? No, non è così in realtà. No, le motivazioni sono industriali, sono quelle che ho detto prima. Senta, però anche la suggestione in realtà segnala questo stesso rischio e in qualche modo fa la stessa osservazione. Lei cosa risponde? Ma io rispondo che da quando siamo quotati a oggi noi abbiamo, per effetto del 52% che deteniamo, avuto sempre delle maggioranze che erano di più dei 2/3 in qualunque assemblea. Quindi è evidente che è una manovra che serve per fidelizzare gli azionisti di lungo termine. Il vostro fatturato cresce 10% all'anno più o meno, però gli analisti di Piazza Affari dicono che il vostro debito di 1,1 miliardi è troppo elevato, è così? No, non è così. Perché non è troppo elevato? Perché il debito va qualificato. Se noi a questo debito andiamo a togliere 450 milioni di euro di investimenti che abbiamo fatto in concessioni, in realtà il debito arriva a essere pari a quello che è il patrimonio dell'azienda. Ecco, appunto, lei ha parlato delle concessioni. La gran parte di questo debito, ha detto lei, l'ha quantificato, deriva dall'entrata nel capitale delle concessionarie. Ma è una scelta che rifareste di entrare nel capitale delle concessionarie? Assolutamente sì. Perché? Perché quando abbiamo fatto questa scelta noi avevamo previsto che ci sarebbe stata una grossa differenza fra quello che era la disponibilità di fondi pubblici e il bisogno di opere pubbliche, e quindi il modo per colmare questo gap era quello di entrare nel segmento delle concessioni, quindi l'abbiamo fatto come scelta industriale per continuare a essere costruttori. Ma e quindi non cederete quelle quote? Le cederemo, perché in realtà il nostro modello di business prevede, una volta realizzata l'opera, valorizzarle e quindi cederla. Il vostro piano industriale 2013-2018 prevede una realizzazione del 25% di utili in più l'anno, ma in un quadro così incerto non le sembra un po' troppo ottimistico? No, quello che noi facciamo è un'attenta scelta e analisi dei paesi dove andiamo a lavorare, e questo quindi ci consente di eliminare le fluttuazioni e le incertezze che ci sono. E quindi lei non è spaventato, non le sembra un piano troppo ottimistico? No, mi sembra molto realistico. Molto realistico. Noi poi siamo sempre abbastanza prudenti nei nostri dati. Meglio sotto che sopra? Un po'. Passo più corto della gamba, non più lungo. Esatto. Senta, di recente voi avete lanciato un programma il cui titolo è molto molto bello, Manager del Futuro. Mi spiega di cosa si tratta? Certo, allora noi guardiamo al futuro dell'azienda. Per guardare al futuro io credo che bisogna anche avere la capacità di formare la futura classe dirigente. Naturale. Questo progetto quindi mira a selezionare i migliori neolaureati in materie tecniche e materie economiche nel mercato italiano e offrirgli un preciso percorso di carriera all'interno dell'azienda, quindi offrendo ai giovani un'opportunità di lavoro concreta. Ma lei, in un giovane da assumere, visto che il capo azienda adesso se ne occuperà ancora di più, un giovane da assumere che cosa cerca in una persona che ha le attitudini magari tecniche, ma dal punto di vista complessivo che cosa la convince in genere? La determinazione e la voglia di mettersi in discussione, la capacità di mettersi alla prova. Senta, l'altro colosso delle costruzioni, quello un po' più grande di voi, Salini in Pregilo, ha annunciato proprio qui a Mix 24 un piano di assunzioni di 15.000 giovani in 4 anni nel mondo. Voi avete in mente un piano di assunzioni anche voi oppure no? No, il nostro piano è diverso. Come dicevo prima, è un piano che mira a creare i futuri dirigenti e quindi come tali siamo su numeri diversi. Poi le risorse le troviamo localmente in funzione delle commesse. Ah, quindi allevamento e come dire è formazione di manager in giro per il mondo di livello medio-alto. Ah. Esatto. Scelti sul posto fra le persone scelti del posto sia sul italiani? Tutte e due, sia sul posto che italiani. Ma prevalentemente che professionalità? Ingegneri? Beh, ingegneri, economisti, ragionieri, geometri, quindi tutto quello che serve per costruire, per la gestione di un'opera importante. Ecco, senta, io le faccio ancora una domanda. La linea metro C di Roma potrebbe arrivare a costare, secondo quello che ho letto io, 273 milioni di euro a chilometro, cioè il doppio rispetto alla media europea. Non è una follia, è il segno anche di qualcosa che non va? Beh, allora, intanto io ho dei numeri che sono leggermente diversi, cioè il costo in realtà per 21 chilometri di metropolitana si aggirerà intorno ai 2 miliardi e 9. Quindi è già un po' diverso. Dobbiamo considerare Roma quindi costerà meno di 273 milioni al chilometro, molto meno. Ma soprattutto Roma ha un contesto archeologico che è unico al mondo. Sì. Allora è chiaro che questo ha un impatto sulla realizzazione di un'opera, nel senso che fare una metropolitana poi si tratta di scavare una galleria, se poi non si fanno le stazioni però serve a poco, quindi il problema sono le stazioni. Certo. Se posso aggiungere una cosa, il rincrescimento che ho come cittadino, oltre che come imprenditore, ritornando all'esempio di prima della metropolitana di Napoli, io trovo delittuoso che a Roma non si possano fare delle belle stazioni di metropolitana valorizzando il patrimonio archeologico che abbiamo. E perché non si possono fare? Chi lo impedisce? Beh, perché le amministrazioni non sono sensibili a questi... No, stiamo parlando di Roma, quindi l'amministrazione di Roma. L'amministrazione di Roma, la che politica... Che cosa anche... vi impedisce di fare? Che beh, vorreste fare? No, lo chiedo... Noi non siamo i proprietari dell'opera in questo caso, certo, quindi noi eseguiamo per conto di un committente. Sì. Se il committente non recepisce questo suggerimento, se la politica non recepisce questo suggerimento, perché poi parliamo di Roma, non parliamo... appunto. Ma secondo lei perché? Anche Mosca, la metropolitana è meravigliosa. Perché probabilmente c'è la paura a decidere, non c'è come, e torniamo quindi a quello che dicevamo all'inizio, cioè un paese che sembra aver timore di prendere delle decisioni. È chiaro che il bello ha un costo, perché se ha io... un costo, però Roma potrebbe avere una metropolitana pazzesca, soprattutto potrebbe farla, perché la metropolitana sta linea C, che punto sta? Beh, i treni funzionano, la metropolitana consegnata funziona. Tanto, sì. No. Ah, va bene, insomma, quindi dobbiamo essere ottimisti. Bisogna. Va bene, allora, viva l'ottimismo. Mix 24. Mario, sì. Che titolo faresti l'intervista di Astaldi? I costruttori sono sempre concreti, per cui è un pilastro. Pilastro, Astaldi è un pilastro. Tu che vai sempre in metropolitana, a Roma. Vabbè. Sottoscrivo il titolo. Sottoscrivi il pilastro. Dunque, ieri alla prima votazione il PD ha presentato il nome di Sergio Mattarella ufficialmente come candidato. Ecco, Sergio Mattarella è un politico di lungo corso, ha avuto una storia, la sua famiglia una storia travagliata, suo fratello Piazzanti, che è stato il presidente della regione siciliana, è stato ucciso dalla mafia. Ecco, per sapere un po', avere un po' il sapore della psicologia, dei sentimenti di Sergio Mattarella, sentiamo questa testimonianza sul fratello Piazzanti e sulla sua morte. Buonasera. È stato ucciso in un attentato il presidente della regione siciliana, Santi Mattarella Democristiano. Piersanti aveva come obiettivo una buona e rigorosa amministrazione regionale, che fosse efficiente, come lui era solito dire, con le carte in regola. Palermo, febbraio 1979. Pio La Torre interviene alla conferenza regionale dell'agricoltura insieme al presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella. La Torre in quell'occasione fece un attacco molto duro alla conduzione dell'assessorato all'agricoltura. Si dice che tutti attendevano dal presidente della regione una difesa dell'azione dell'assessorato, che invece non venne, perché in quella conferenza, nelle sue conclusioni, Piersanti sottolineò l'esigenza che l'assessorato si muovesse con criteri di trasparenza, di legalità, di visibilità, di correttezza maggiori. Questo raffigurava l'immagine di un fronte impegnato attivamente e concretamente contro le infiltrazioni mafiose e comunque di corruzione, che superava i confini di partito e quindi era particolarmente incisivo e pericoloso per gli interessi illeciti. Lui la domenica usciva con la famiglia. Io credo che fosse consapevole che se avesse avuto la scorta la domenica avrebbero fatto un massacro, e l'assenza di scorta invece avrebbe tenuto al riparo i suoi familiari, perlomeno. Io abito di fronte la casa in cui viveva Piersanti. E sono stato chiamato da mio nipote, da suo figlio, che mi diceva di scendere immediatamente. Non avevo ben capito cosa fosse successo. Sono sceso, l'ho preso, l'ho portato al pronto soccorso. Mi fermo qui. Pietrangelo, sul fatto di oggi, tu hai fatto una sorta di ritratto di Mattarella e lo hai, come dire, riassunto in una parola che io, sì, non ho capito bene. È una palatiale siciliana. Palatiale siciliana? Io già sono febbricitante, sì. Vedo se riesco a far sentire il suono. Mm. E quando si chiede qualcosa e siccome una parola è poco e due sono troppe, allora si fa così. Mattarella, la canzone. Assurdo cosa accadde quando ti vidi per la prima volta. Portavo un cuore entrando nella stanza, ma uscendo non lo avevo più. Amore come vetro lo infranse al primo colpo. Tempo è passato da quel temporale, un rimedio ti avevo Angelo, dato con tutta quella febbre in metropolitana oggi. Con andata? Tutta sta febbre in metropolitana mi sono accorto di un fatto, che il nostro filosofo, asciugando una goccia di rugiada sulle gote di una donna la cui fuga in metropolitana era tutta d'allegria, si fece carico di spiegare l'assurdità dell'amore, e avendo traffici teoretici con Morgan, il filosofo, mandando poi baci alla giovane signora e gli arrivederci, e cercando in quel volto un sorriso che potesse raccontare qualcosa, trovò un apologo che è questo. Ed è assurdo cosa accade quando ti vidi per la prima volta, canta con Morgan. Portavo un cuore entrando nella stanza, ma uscendo non l'avevo più. Amore come vetro lo infranse al primo colpo. Morgan. Restituirti quello che mi hai dato, nonostante il cuore infranto da lontano. Vabbè, ci fa sognare anche da malato, sì, Pietrangelo. Anzi, no? Di più, è più onirico, perché sì, la temperatura è alta. L'oniricità. Andiamo con le bolle. Vatti a trovare qualcun altro da incastrare. Hanno fregato 11 bigliettoni al nostro corriere. È stato ripulito da due furbacchioni. Falli sistemare. Non sono così stupido da fregare i soldi a una banda. Non l'avrai fatta apposta. Io voglio fregare l'Omega. Lo devo mettere in ginocchio. Io non ho mai fregato. Devi tenere tutto in piedi anche dopo averlo spolverato, se non capisce che l'hai fregato. E insomma, ricorreva un po' la parola fregato nella Stangata, un film fantastico che bellissimo, tutti ricorderete, sì. Una sceneggiatura meravigliosa, una colonna sonora altrettanto grande. È un'interpretazione pazzesca. E poi appunto un cast pazzesco. Allora, e chi? Qualcuno ha fregato qualche altro. E insomma, diciamoci la verità, cari amici, Pizzi è un dritto, e al Cavaliere la cosa è andata molto storta. Forse la prima volta che vedo Berlusconi così in difficoltà, è messo Scuro. All'angolo, beh, spiazzatissimo, sì, almeno finora, poi in politica, sai. Io mi ricordo, un giorno in cui Berlusconi aveva deciso che votava contro, aveva fatto fare le dichiarazioni alla Camera e poi in un minuto ha cambiato tutto. Questo infatti non è escluso. Il varo del governo Letta. Questo non è escluso. Restiamo però ai fatti di oggi sono che Renzi ha chiuso i ranghi del partito, di fatto, certo. Molto blindato sul nome di Mattarella, direi proprio al 100%, quasi, insomma. Quindi avrà certamente, a meno che di un clamoroso errore di calcolo e quindi politico, i voti per fare eleggere Mattarella al quarto scrutinio. Cosa accadrà? Ricordiamo sempre che il quarto scrutinio è decisivo, non si può andare al quinto. Quindi siamo nella regola e un colpo a vuoto sarebbe l'eccezione. Nel primo caso, cioè quando lui lo eleggerà, se lo eleggerà con i soli voti suoi e di qualche alleato, alla fine il patto del Nazareno non ci sarà più, chiaramente. Se va così, è così. Se va così, è così. Se invece cambia qualcosa, Mattarella non dovesse farcela, secondo me ipotesi remota, beh, a quel punto non è che finisce il patto del Nazareno, finisce la leadership di Renzi e anche il governo. Aggiungo che secondo me comunque lo scenario che si sta prefigurando è quello delle elezioni anticipate. Ma noi sono mesi che diciamo elezioni in primavera, mi sembra che l'esito comunque vada, è insomma, il più probabile. Mi sembra che alla fine l'esito Salamino! Un buon non compleanno a me, a chi? A me, a te! Un buon non compleanno a te, a me, a te! A me! Pensiamo tutti insieme scusate, con un è la febbre o sono io a vedere tante teiere qui su questo nostro desk? Pure le ci teiere. Sono le teiere? Ci sono, o è la febbre che me le fa vedere? No, ci sono. Ma sono teiere. E un buon non compleanno per Mario. Ancora? Siete veramente delle cose pazzesche. No, hanno deciso, io avverto gli ascoltatori, hanno deciso che devono fare un tormentone sul mio compleanno ieri, ma sul non compleanno. Certo, per sentire la voce più sexy della radio. Assapora questo tè del cappellaio matto. Cappellaio matto. Scusate l'interruzione, però ci hanno chiamato e c'è in linea una telefonata molto importante, uno scoop quasi. No. Sono forse sono i 101 tornati, che sono hanno tornati. Segato Prodi? Ehi. I franchi tiratori. Pronto? Ah, ma no, è Dudu! Ah, è ancora vivo! Buongiorno, Dudu. Scusa, io, malgrado la febbre, traduco io perché ho le scuole alte. Prego, Dudu. Ah, ho capito. Dice Dudu, il patto non c'è più. Ma... E dice pure che con Renzi non ci gioca. Volete fargli delle domande? Ma ci ha stupito. Ma è il suo amico? Che fine ha fatto? Il cane di D'Alema. Chiediamo. Ah, dice Ajace Telamonio ormai si è ritirato ad Heidelberg, dove sta traducendo le opere di Martin Heidegger, non essendo soddisfatto di quelle attualmente in commercio. Dice Mario, se tu vuoi. No, io sono curioso di sapere cosa ne pensa Dudu di Sergio Mattarella. Grazie. Dice a occhio e croce sarà peggio di Oscar Luigi Scarpa. Così pessimista. E certo, quello viene da una solida tradizione per cui fregherà il povero Silvio. Anch'io una domanda. C'ho una domanda per lui anch'io. ma è stato sorpreso anche lui dalla fregatura che ha preso Berlusconi? Sorpreso proprio no, perché già l'avevano preparato zio Fedele Confalonieri e zia Marina Berlusconi. Gli hanno detto: o ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra. Però io... Ah, ecco. Cioè lui dice che comunque bisogna tornare ai vecchi amori. E chi sono? E Angelino Alfano gli chiederà di far cadere il governo e di andare alle elezioni e di offrirgli così la candidatura a premier direttamente ad Angelino Alfano. Mario, bolla! Vai! Tutti in piedi. Tutti in piedi. Allora, parliamo un po' di Russia. Perché la cosa è, insomma, assume tutti i contorni che doveva assumere quando noi già dicevamo quello che poi sta accadendo, e cioè che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea si è diviso sulle sanzioni alla Russia. Ti ha sorpreso, Giovanni, a te? No. No, a te Pietrangelo ti ha sorpreso? Purtroppo, è così che va. Sono fatalista. Allora, la verità è che non, appunto, questa cosa mostra la corda, questa strategia. È stata molto forte la opposizione della Grecia, che ha una tattica molto precisa di praticamente appoggiarsi a Mosca, di fatto, e viceversa, aggiungo. La verità poi è che il fronte era già stato rotto ampiamente da dichiarazioni di Hollande che noi qua in trasmissione avevamo puntualmente riportato. Certo, è vero, Putin appoggia i ribelli in Ucraina, forse li arma, ma non è che la NATO sta ferma, perché la NATO guida l'esercito di Kiev. La mia piccola, modesta, umile opinione è che non bisogna mai giocare con la Russia. Senti, perché Mario, giochi a mosca cieca alla fine. Mario, ti è sfuggita una notizia, tu che sei non ci posso credere. Un russologo pazzesco. Un criminologo. Il ministro delle finanze russo ieri ha detto: Grecia, se poi proprio l'Europa non ti aiuta, ci pensiamo noi siamo pronti. Non mi è sfuggita. È sembrata un'apertura interessante. Non mi è sfuggita, fai bene a ricordarlo, perché invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguire con attenzione la liaison in corso tra Atene e Mosca sulla questione appunto del cosiddetto salvataggio della Grecia. Ci sarà, secondo me, molto sorpresa da discutere e da vedere. È l'asse ortodosso. C'è una comune radice spirituale. E quelli, gli ortodossi, sono seri. Sì. Mix 24. Bolla Mario. Un po' di musica. Un bel pezzo disco. Anni 90. Grooves in the Air. Allora, musica direi, no? Perché io seguo molto questo mercato, mi piace, è una cosa molto interessante perché è la nuova economia, la sharing economy in effetti. E insomma, Spotify ha dato un mandato a Goldman Sachs per raccogliere un altro mezzo miliardo. Pensa, Giovanni, la valorizzazione di questa azienda che ha rivoluzionato lo streaming musicale online è di 8 miliardi. 8 miliardi allo stato attuale. Sta ancora, è in fase di sviluppo, finanziamento, arriverà poi certamente anche in borsa. Anzi, certo, i soldi in questo momento vanno veramente tutti nella stessa direzione. Stanno andando là, sì. Perché poi la cosa interessante, a mio avviso, che non si è ancora compresa pienamente, è che non è che è il settore digitale, è che è il digitale ovunque. Certo, questo digitale è ovunque. La vera sfida, certo. È digitalizzare attività che tradizionali. Normali. Per renderle migliori, certo. Per fare servizi. Quindi è veramente la sfida che questo paese deve abbracciare, secondo me. Perché poi siamo bravi a fare queste cose. Ed è un peccato perdere questo treno. Ecco, oggi, come tutti i venerdì, è il momento della nostra posta del cuore. Scriveteci se volete a mix24@radio24.it, sms a 349-238-6666. Ci scrive Antonia. La storia è semplice, dice, o dovrebbe esserlo. Lui mi piace e credo di piacergli. Infatti mi invita a pranzo, poi a cena e lunghe passeggiate, interminabili chiacchierate, addirittura risate. Iniziano anche gli sms e gli scambi su WhatsApp, che si fanno sempre più frequenti, intensi e intimi. Poi ci si rivede e si ricomincia. Chiacchiere, risate, passeggiate. Ed eccoci al bacio sulla guancia. 5 minuti dopo arriva un nuovo messaggio. Quant'ero bella, quel vestito così corto. Ma allora, dov'è finito il mio bacio sotto il portone? Timido, goffo, appassionato che fosse, quel bacio diceva un sacco di cose. Se rivedersi o no, per esempio. Ma non sarà mica stato sostituito dagli sms? Le amiche confermano. Succede che la messaggistica varia prenda il posto di baci e preliminari, e quando è così spesso anche al sesso non si arriva proprio. Quindi sbrigati, mi dicono, bacialo tu, mi consigliano. Ma siamo impazziti? Se non mi bacia, non gli piaccio abbastanza. Oppure non ha abbastanza coraggio. Insomma, in entrambi i casi io non ci sto. Voglio il mio vecchio bacio sotto il portone. Sbaglio? Allora, Pietrangelo, Antonia, sbaglia? Dunque, i casi sono due, giusto? O non gli piaccio abbastanza, dice Antonia, oppure non ha abbastanza coraggio. Ma io dico, signora Antonia, gentilissima Antonia, carissima Antonia, ma per forza deve perdere tempo con sto scimonito? Perché, diciamolo, è uno che vive in una realtà virtuale, è quindi un disturbato, un malato. Dovete smetterla, perché vedete, questo orizzonte occidentale ormai si è caricato di tutti questi personaggi che poi non hanno né sangue né sostanza. E allora le consiglio, Antonia, le consiglio di tagliare recisamente e possibilmente farglielo pesare, come si faceva una volta, dicendo che non solo aveva il sospetto che non fosse buono per il re, ma mai e poi mai buono per la regina. Perfetto, invece io cerco sempre una soluzione, diciamo, e questa storia, questa lettera di Antonia mi ha fatto venire in mente la scena di un film molto divertente. Lo riconoscete? Dammi un bacio. Sono serio? Sì, perché tanto andremo a casa tua più tardi, vero? E ci sarà tanta tensione, sai, non ci siamo mai baciati. E io non saprò mai quando dovrò fare la prima mossa. Perciò togliamoci il pensiero subito, prima di cena, ok? Digeriremo anche meglio. Era io e Annie, l'avevate riconosciuto. Siete d'accordo? No, c'è anche la terza ipotesi che si può fare sul bacio, ma potrei anche non farla. Quella di Cyrano de Bergerac, immagino. No, è l'alito. Lui non la bacia per l'alito. Ma come se ma veramente, dai. Il mio cinismo. Mario, ma sei orrendo, c'è? Veramente orrendo. Ma perché tutta sta poesia in cui cascate? Io non lo so. Ci sono delle ragioni anche molto più semplici. A Mix 24, dopo il giornale radio, nella seconda giornata di votazione per il nuovo presidente, noi continuiamo la carrellata dei presidenti, e dopo Leone e dopo Pertini raccontiamo la carriera e la vita politica di Ciampi, governatore della Banca d'Italia, ministro del Tesoro, presidente del Consiglio, infine presidente della Repubblica. E come sempre Marina Milone commenterà con Prodi, con un'intervista a Prodi che dice la sua sull'elezione di Ciampi. Questo dopo il giornale radio. Ma intanto hai ancora una bolla? Sì, no. Aspetta, il file di Ciampi. Quando è stato il giorno più drammatico nel nostro viaggio verso l'euro? Ma non vi è stato un giorno, è stato soprattutto il senso di difficoltà di far comprendere agli altri membri della comunità europea che l'Italia aveva veramente, stava veramente facendo un risanamento vero. Non crede che ci sia stato un po' anche la fiducia che avevano in lei come persona? No, guardi, lei è molto gentile a dirmi questo, ma... Non lo dico perché lo penso. Bisognava dimostrare che in Italia veramente si era creata quella che io chiamavo una cultura della stabilità. Lorenzo Biagi che intervistava Ciampi. Naturalmente c'è ancora una canzone. Buon compleanno a me, a chi, a me. Buon non compleanno, Mario. Tutti quanti qui ci uniamo al buon coro. Compleanno. Buon compleanno, vabbè. Vuoi i pasticcini del cappellaio matto? No, perché peso un po'. Insomma, un po' cicciotto. Non, sì, è vero. È un po', non è vero, non no, è vero. Dai, sì. Sei bello. Come no. Senti, e comunque adesso per finire confusione di Lucio Battisti. Se sei figlia della solita illusione.